cosa n'ha un'altra sole, n'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, n'hai un'altra sole. Viene, me viene come una malinconia, sotto la finestra tua restaria. Quando fa notte o sole sera,